sì, finalmente la fottuta patente. Dai, metti la quarta che partiamo. Posa. Faccio la patente in una stanza con la gente che sente, per evitare ogni incidente a volte in mente. Faccio viaggi mentali anche quando dover viaggiare nei viali, non superando il limite nei centri urbani. Mani al volante, catari frangenti, il giubbotto, lo specchietto al suo posto giustamente, mentre l'alcol test diventa verde. Un'altra vita la si perde per colpa di un deficiente. Domande nei quiz bastarde, più un test di logica che X vere o false. E quante banconote alle autoscuole, alle auto nuove, alle autostrade, alle auto alle code, Rover, Opel, se c'ho la Lancia Y, carrozzeria con graffi la caratterizzano e gli abbaglianti ti feriscono. Guido l'auto ma non sono autistica, è colpa degli altri se non mi capiscono. Faccio la patente, bip bip bip, pompo l'autoradio con un altro beat. Faccio la patente, bip bip bip, saluto la mia bici, din din din. Faccio la patente, bip bip bip, pompo l'autoradio con un altro beat. Faccio la patente, bip bip bip, saluto la mia bici, drin drin drin. Fari accesi mezz'ora dopo il tramonto, nell'automonto una Lancia Y per girare il mondo. Conto chilometri, cartelli, chiudo gli sportelli, sensi unici alterni in cui rallento, galleria, ci entro attento alla ferrovia, corsia d'emergenza per l'avaria, polizia, autogana obbligata la fermata, passo con prepotenza, sbarra abbassata, cintura allacciata, patente più libretto, fermo alla fermata, al semaforo che aspetto, scorrono di getto, l'assetto della gara, altro che dei Caraibi, son pirati della strada. Brutta la giornata per l'andata all'ufficio, tangenziale bloccata e il ritorno è un impiccio. Cerchi parcheggio però non ci si infila, si rifila pomeriggio di merda in doppia fila. Faccio la patente, bip bip bip, pompo l'autoradio con un altro beat. Faccio la patente, bip bip bip, saluto la mia bici, din din din. Faccio la patente, bip bip bip, pompo l'autoradio con un altro beat. Faccio la patente, bip bip bip, saluto la mia bici, drin drin drin.